Ora 21:07 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa inizia anche per oggi 22 maggio 2019 prove tecniche di trasmissione sino alle 22:30 circa. Il sito della radio è www.ondarossa.info per lo streaming. Telefono storico 0649 1750. Indirizzo email ondarossa@ondarossa.info. Domani sul sito della radio e sulla pagina Facebook prova tecniche di trasmissione /disorder uscirà playlist e podcast di questa puntata. Cominciamo a salutare Maia dalla Sardegna, Luciano FM genovese, valente musicista qui romano. Da Firenze Antonio Zoviet, anche lui musicista come Omicidio. Un'altra grande artista, Lupsi, ossia Lucia Cagliazza, e anche Stigmate con Nicola Locci. Alle 22:30 ci sarà naturalmente 25 o'clock. Come ormai gli affezionati sanno, sovente viene nominata e suonata la Nespray Sounds Label di Raffaele Pezzella, ma c'è un'entità parallela che è più, diciamo, in sintonia col dark ambient, con la space ambient. Sto parlando del Light Tower Records, che abbiamo un po' trascurato ultimamente, quindi andiamo a porre riparo con questa compilation dal nome Decay, Death and Darkness. Una compilation dedicata a Zazislav Beksiński, un multimediale artista polacco, le cui qualità e note si possono trovare sul profilo Bandcamp appunto di Eight Tower Records. Cominciamo con l'ascoltare Nuno Veiga con Boa Morte e poi MK Noise Visions of Abraxas con Inside Yitmar. chiama dunque questa interessantissima compilation, si chiama Decay, Death and Darkness, titolo particolarmente allegro. Una compilation naturalmente assemblata da Raffaele Pezzella, che salutiamo e che ci sta ascoltando da Napoli. Benvenuto anche al maestro Sisto Palombella. E anche a Like Away, che è qui da Roma. Dunque una compilation che esce per la 8 Tower Records, questa entità parallela alla Nespresso Sounds label. Una etichetta che si è distinta per mettere un po' più d'attenzione alla dark e alla space ambient. Questa è una compilation in un certo senso dedicata a Zdzisław Beksiński, questo artista a tutto tondo, pittore, scultore, grafico. E questa sera ci siamo ascoltati un paio di personaggi dal nome Nuno Vega, credo portoghese ma non sono sicuro. La cosa sicura invece è che MK Noise e Visions of Abraxas sono, o è, perché è un artista solo, anche se ha due nomi, proviene dall'Austria. Grazie a Raffaele per le puntuali, per i puntuali chiarimenti. Di nuovo un saluto a Maya dalla Sardegna, noi si va avanti e approdiamo qui in Italia con uno delle voci più interessanti degli ultimi anni, che proviene da Venezia e che si chiama Alberto Nemo. Spesso mi piace accostarlo, e lui non si offenderà, credo, addirittura a Lisa Gerrard di Deccan Dance, quindi a una donna, ma anche a Anthony The Johnsons e a John Balance, quindi un trittico di eccellenza che è riassunto nella splendida abilità vocale di Alberto Nemo, al pari delle liriche e anche della musica, chiaramente in questo caso sempre abbastanza rarefatta, ma sospesa anche tra movimenti etnici e anche elettronica un po' breakbeat. Allora, questa sera ci ascoltiamo Infinita, Tia e Voleva. Hey. Ancora Alberto Nemo da questo Tidur 21:31 Radio Onda Rossa, prove tecniche di trasmissione. Ultimo lavoro per Alberto Nemo, si chiama Tidur. Epico, sinfonico, etnico, visionario e anche effettivamente un po' melò, quindi di musica medievale, acuta osservazione di Sisto Palombella. Un artista a tutto punto che consiglio caldamente di andare a visitare il profilo Bandcamp, dove c'è tutto il materiale di Alberto Nemo. Compreso questo titolo che, ricordo una volta, esce attraverso una etichetta siberiana. Queste particolari estensioni vocali che non lasciano indifferente, anzi sono di un'intensità unica. Rimaniamo qui in Italia, andiamo a conoscere un new entry qui a Prove Tecniche di Trasmissione. Trattasi di Iena, un personaggio, un artista proveniente da Milano, nella persona di Giona Vinti, che salutiamo qualora sia l'ascolto. Parecchio materiale però al suo attivo, e anche qui consiglio di andare sul profilo Bandcamp di Iena. ovviamente con l'H iniziale. Cominciamo a conoscere questo Fence, uno degli ultimi lavori, attraverso Factor Gnosticus, una breve intro, e poi la prima parte della title track, per l'appunto Fence. abbiamo cominciato a fare la conoscenza con Iena, questo artista proveniente da Milano, lo ricordiamo, Jonah Vinti, questo è il vero nome, credo sia il vero nome di questo artista. Sciami di impulsi pervadono la struttura armonica di questo Fains. In altri frangenti più riconducibili alla Death Ambient di scuola Trasmorg, ad altri invece frangenti più ruvidi. E quindi un album pieno di suggestioni anche diverse tra di loro. Si chiama Fains. Allora, di tanto in tanto andiamo a trovare il Nordvarger, un artista ormai decennale per quanto riguarda la scena industrial noise, proveniente dalla Svezia, che ha in passato formò gli MZ412, tanto per citare probabilmente il progetto più famoso, e poi Folkstorm e altri. Ebbene, qui c'è una rilettura di Metempsychosis, un album del 2018, una rilettura attraverso vari remix di artisti, per la maggior parte svedesi. Guarda caso la prima traccia, Into the Cycle of All and Nothing, proprio di MZ412, quindi lui e altri due musicisti. E poi At the Crossroad of Immortality, con un remix di Bassafor. Ancora dunque un brano da questo Tanto Melior di Nordvarger, questa traccia remixata da Vassafor. Tanto meglio, nient'altro che una rilettura nel 2019 dell'album Metempsychosis uscito l'anno scorso. E quindi si affidano le tracce di quell'album alla rilettura e alla sensibilità di altri artisti. Questa sera allo stesso Nordvarger tramite MZ412 e in questa ultima traccia a Vassafor, un progetto neozelandese di black metal. Artisti anche molto diversi tra di loro, per esempio più avanti c'è addirittura l'EBM di Spetsnaz, fino ad arrivare a Torofon. Andiamo nella Hospital Productions, questa etichetta che sia oggi sia lunedì stiamo valorizzando attraverso vari artisti, questa sera con Alberic, mentre lunedì con Silent Servant. In queste settimane abbiamo apprezzato Quantized Angel e lo andiamo a concludere questo viaggio in questo bel lavoro attraverso l'ultima traccia, la più lunga, dal nome Radio Hope. Un artista che ci ha fatto ricordare Sonar, ci ha fatto ricordare Panasonic ed altre suggestioni del passato.